Io ti ho preso in giro perché ti ho amato tanto e volevo salvarti dal mio inferno. Torna perciò ora ai tuoi pressanti impegni, ai tuoi sorrisi attenti a non cadere. Ma c'è chi cammina scalzo su campi minati di giorni, che non ha proprio nient'altro da fare e gli rimane del tempo da lasciare dietro a ballare al suono lungo delle sirene. Entra, ti prego, entra in questo momento, senza luce, gas, riscaldamento. Ma che c'è di strano, felice chi è cretino, oggi sparge lacrime di vino. Io intanto rubo un libro alla Feltrinelli da leggere giù al parco mentre piove, che sembra il cielo stinga nell'urlo del sole intorno quanti giri di parole. Cammina scalzo su campi minati di giorni, che non ha proprio nient'altro da fare e gli rimane del tempo da lasciare dietro a ballare al suono triste delle sirene.